24 mattino di Alessandro Milan. Eccoci, siamo qui cari ascoltatori con il nostro Filippo Reggi in regia, lì pronto, la nostra redazione fervente, il sonno, questo sconosciuto. Eccoci, in diretta fino alle 9 anche oggi. Allora, sono 20 anni dall'uccisione di Paolo Borsellino, gli uomini della sua scorta. Oggi Palermo ovviamente la ricorda. Avremo il sindaco di Palermo, Leo Luca Orlando, alle 8:20 con noi. Poi torneremo sul tema Sicilia, la Sicilia al crack o non al crack. Le accuse anche con il governatore Lombardo che attacca e contrattacca. Avremo ospite il vicepresidente della Sicilia, Russo, e il direttore di Libero, Maurizio Belpietro, quotidiano che lo stesso Lombardo ha detto quereleremo, perché ha scritto ieri la Sicilia appunto è fallita, così come peraltro il giornale. Questo è il tema, questo è il menù di quello di cui ci occuperemo più avanti. E adesso da cosa iniziamo? Dalla lettura dei quotidiani in edicola, ovviamente. E via! È giovedì 19 luglio. Intanto le aperture che sono diversificate, i giornali fanno delle scelte diverse. Il Sole 24 Ore, piano bis antiburocrazia, sportello unico per l'edilizia. Questo è allo studio una proposta fatta da Giavazzi, il consulente, docente della Bocconi e consulente del governo Monti. L'attualità internazionale invece per molti quotidiani: strage di turisti israeliani, attentato in Bulgaria, questo è l'apertura del Corriere della Sera, mentre Repubblica, Siria, uccisi i fedeli di Assad. La Stampa mette queste due notizie con due foto e due titoli affiancati: strage di turisti, Israele accusa l'Iran, e Siria, attacco al cuore del regime di Assad. È una doppia apertura, diciamo così. Per il Messaggero, la strage dei turisti israeliani, mentre l'Unità, terrore nel cuore dell'Europa. Altre aperture invece: il Fatto Quotidiano ha un documento, un'informativa segreta della polizia giudiziaria su Formigoni, 9 milioni di euro i soldi di Daccò a Formigoni, questo è il titolo di apertura del Fatto. Mentre Libero, Monti sbarca in Sicilia, resa dei conti. Il Giornale sulla vicenda della procura di Palermo e Berlusconi, riaperta la caccia all'uomo, questo è il titolo di apertura, mentre il Manifesto apre su una vicenda diversa che riguarda posti di lavoro. Il piatto piange, c'è la foto di ceramiche di pregio in primo piano, dopo 277 anni Richard Ginori chiude lo stabilimento di Sesto Fiorentino. Questo è dunque il titolo sul rischio di perdita di posti di lavoro. Io però voglio partire da una buona notizia, una bella notizia, è ormai definitiva, questa volta è definitiva, contrariamente a quanto era successo il 7 marzo scorso, quando ci fu una notizia falsa della liberazione. Rossella Urru, la cooperante rapita 270 giorni fa insieme a altri due cooperanti spagnoli, è davvero libera questa volta, è stata liberata. E tra l'altro la cronaca più interessante, più dettagliata che vi voglio leggere la fa Massimo Alberizzi sul Corriere della Sera, evidentemente con fonti ben precise, cose che lui ha. Massimo Alberizzi è uno dei cronisti più attenti a quello che succede in Africa, dove vive anche gran parte dell'anno. 9 mesi nel deserto, Urru liberata da un emiro, questo è il titolo che trovate a pagina 16. Allora, fatta salva appunto la bellissima notizia finalmente della liberazione, sentite la cronaca di come è stata liberata, rilasciata in Mali. Rossella Urru, la cooperante italiana rapita dal Qaeda nel Maghreb islamico il 23 ottobre scorso, è stata liberata assieme ai suoi due compagni spagnoli di prigionia. Tra l'altro le agenzie dicono sta per essere trasferita in Burkina Faso e poi ci sarà il rientro in Italia. Dopo mesi di trattative, la stretta finale del processo di liberazione comincia domenica scorsa, quando il riscatto inviato dall'Europa arriva in Burkina Faso. Dunque c'è un riscatto, e un riscatto molto molto sostanzioso. Il denaro è stato trasferito all'emiro Abdul Hakim a Gao, nel nord del Mali, in quella regione denominata Azawad, quel territorio in cui i radicali islamici di Acmi, Tuareg e non solo, pochi mesi fa hanno proclamato l'indipendenza. L'emiro, Lunedì mattina è impegnato forse a contare il denaro, forse sta festeggiando l'arrivo dei pacchi di dollari. Si parla di 10 milioni di euro a ostaggio, quindi per un totale di 30 milioni di euro. E così fa saltare l'appuntamento che ha preso con lo stringer del Corriere della Sera, cioè il giornalista locale che collabora con il Corriere. Lo lascia lì nel suo ufficio perché sostiene deve incontrare degli stranieri, probabilmente sono gli inviati del Burkina Faso ai quali deve consegnare gli ostaggi. Con loro a Gao c'è anche una vecchia conoscenza, il mediatore, di cui è meglio non fare il nome, che ha ottenuto il 17 aprile scorso la liberazione di Maria Sandra Mariani, altro ostaggio italiano catturato in Algeria. Abdul Hakim, che intende procedere alla liberazione, deve però fare i conti con i suoi. All'interno della sua katiba, cioè la cellula islamica, si alzano voci contro la liberazione degli spagnoli. Oltre al pagamento del riscatto, pretendono il rilascio di 7 di compagni di prigionia detenuti nei paesi del Sahel e un ufficiale italiano conferma che alcuni di loro sono stati liberati. Dunque l'atmosfera si rilassa, contribuisce a rilassare anche la promessa che una parte del riscatto verrà redistribuita a militanti islamici e così martedì gli ostaggi vengono portati a Gao, città principale del Mali, del nord del Mali e base dei fondamentalisti, e da qui per farli uscire dalla città l'emiro Abdul Hakim mette a disposizione la sua automobile, che poi altro non è che quella del console algerino in città, sequestrato con 6 dei suoi collaboratori qualche mese fa, e il convoglio parte in direzione del confine col Burkina Faso, ma poi rientra con il tentativo di confondere le piste. Insomma, questa è la cronaca molto dettagliata. Poi alla fine c'è stata la liberazione. Massimo Alberizzi lo trovate sul Corriere della Sera, pagina 16, ma su questa notizia c'è anche tutti i giornali dedicano pagine. L'Unità, per esempio, 9 mesi in ostaggio, Rossella è libera. C'è anche un intervento del ministro Andrea Riccardi che in un intervento in prima pagina dell'Unità parla di bella notizia, ovviamente, che ci riempie di gioia per una donna coraggiosa, un momento di festa che però non diminuisce l'inquietudine per la sorte di un altro connazionale, Guido Lo Porto, ancora nelle mani dei sequestratori. E poi l'allarme lanciato da Andrea Riccardi, e non è la prima volta, ne abbiamo parlato anche noi, se ricordate, qualche settimana scorsa, su quella zona dell'Africa, del Sahel, che rischia di diventare davvero la nuova culla del fondamentalismo islamico. E infatti scrive Riccardi: sono molto preoccupato per quel che avviene nella fascia del Sahel, temo che diventi un piccolo Afghanistan. E su questo tema registro anche il Foglio, ilfoglio.it. ieri per prima ha dato la notizia, tra l'altro innescando anche una polemica, perché la Farnesina, solo il Ministero degli Esteri in serata attorno alle 19:30 ha potuto confermare questa notizia, anche perché ricordate, appunto, il 7 marzo scorso si sparse la voce della liberazione di Rossella Uro e poi non era vero. E allora scrive il Foglio: la Farnesina sapeva qualcosa della liberazione della Uro? Questo è il titolo provocatorio. E fonti del Foglio sottolineano che la Farnesina non ha avuto un ruolo di peso, anzi è apparsa in ritardo, ipotizziamo addirittura all'oscuro, al momento della liberazione di Rossella Uro, cooperante sarda rapita a ottobre in Algeria. Il Foglio.it ha dato in esclusiva la notizia 6 ore prima della conferma ufficiale, conferma che è arrivata solo dal ministro italiano Giulio Terzi alle 7:30 di sera, forse perché scottato da quanto accadde il 7 marzo scorso. Insomma, l'accusa in qualche modo del Foglio è questa: ma sapeva la Farnesina che stava per essere liberata, oppure, come ipotizziamo noi, c'è stato un ritardo da parte del ministero? Trovate, ripeto, molti articoli su questa, che comunque, al di là di tutto, le polemiche, il sequestro, il riscatto da 30 milioni di dollari secondo per 3 cooperanti, secondo il Corriere, al di là di tutto questo la notizia buona è la liberazione, ovviamente. Voglio segnalarvi solo che ci sono tanti articoli su un altro tema di cui ci siamo occupati, vale a dire Green Hill. Vi ricordate quel centro di ricerca dove si utilizzano per la sperimentazione anche i Beagle, che è in provincia di Brescia e che è stato sequestrato il Lager Green Hill, titola per esempio il giornale. Ci sono termini di questo tipo: gli animalisti battono Green Hill, a pagina 20 della Stampa con Fabio Poletti. Devo registrare due interviste, un'intervista a Ghislaine Rondeau, responsabile per Green Hill in Italia della società Marshall Farm che gestisce questo centro dove si allevano beagle anche per la sperimentazione, e che dice: siamo oggetto di perquisizione dal 2010, abbiamo subito 16 ispezioni, ma noi rispettiamo la legge, faremo valere le nostre ragioni nelle apposite sedi legali. Ovviamente esultano gli animalisti che hanno assediato anche per giorni Green Hill. Per esempio c'è un'intervista a Loredana Progno, una delle leader dell'associazione della Federazione Italiana Diritti Animali, intervistata dal Messaggero. Dice: non è questa una soluzione, noi ci aspettiamo la chiusura definitiva di quello che viene definito un lager, mentre la società dice facciamo tutto in maniera legale. E si riapre il tema sul il dibattito sulla sperimentazione anche sugli animali con il farmacologo Silvio Garattini, che in un'intervista a Libero ribadisce, la trovate a pagina 21, la sperimentazione e la ricerca è necessaria se si vuole curare l'uomo. Noi non ci divertiamo con queste sperimentazioni. Il fine è diminuire le sofferenze dell'uomo e curare le malattie. Bisogna decidere se la società vuole o no questi miglioramenti. Quando uno è malato, fa tutte cose che hanno richiesto la sperimentazione animale. Questo però non significa far soffrire gli animali. Noi cerchiamo di evitarlo il più possibile. Nei nostri stabulari c'è l'aria condizionata, il cibo è controllato, gli interventi avvengono in anestesia, cerchiamo di diminuire il numero di animali da usare. Negli anni 70 ne utilizzavamo 100.000, oggi grazie alla risonanza magnetica, TAC, ecografie eseguibili anche su topi e ratti, siamo scesi a 15.000. Ed è importante che l'animale non soffra o lo faccia il meno possibile. Ma dice e ribadisce Garattini un tema che è sempre molto dibattuto e crea molto dibattito: la ricerca è necessaria. Allora, dal punto di vista economico, detto che ci sono le nuove rassicurazioni del ministro dell'economia Grilli, che dice non ci sarà bisogno di una manovra bis, io voglio partire proprio qui dalla notizia che mette in prima pagina il Sole 24 Ore, una notizia che ha solo il Sole 24 Ore: il piano bis antiburocrazia, lo sportello unico per l'edilizia. Il governo è pronto a avviare la fase 2 delle semplificazioni. Un emendamento al decreto sviluppo potrebbe arrivare una serie di misure per l'edilizia. Si parla sempre di ipotesi, potrebbero arrivare. Di cosa si tratta? Sportello unico rafforzato, semplificazione del permesso di costruire, acquisizione d'ufficio dei documenti già in possesso della pubblica amministrazione. È anche pronto il piano Giavazzi sui contributi alle imprese. Francesco Giavazzi è stato chiamato dai editorialisti del Corriere, docente, a essere consulente appunto per gli aiuti alle imprese. Ed eccolo qui il piano Giavazzi sui contributi alle imprese. Il consulente incaricato dal Premier nel rapporto e in uno schema di decreto legge individua incentivi eliminabili per 10 miliardi da spostare a riduzione del cuneo fiscale sul lavoro. Dunque, due le notizie. Quella dello sportello unico per l'edilizia, e trovate tutti i dettagli con Marco Rogari a pagina 3 del Sole, tutte le misure per semplificare i lavori e le procedure più snelle sulle licenze per costruire. E invece il piano Giavazzi, stop agli incentivi, 10 miliardi per garantire un fisco più leggero. Carmine Fotina, trovate tutti i dettagli a pagina 2. Questo sono allo studio del governo. Sullo sfondo c'è e ci sono moltissimi articoli su quella che è la situazione della Sicilia. Ieri il governatore della Sicilia Raffaele Lombardo è andato al contrattacco dopo la lettera ricevuta da Monti, che in pratica diceva: ci confermi se vuole dimettersi il 31 luglio perché poi prenderemo i dovuti provvedimenti. Mai è stata usata la parola commissariamento, però questa un po' aleggia anche sulla Sicilia, i cui titoli ieri di alcuni giornali, Libero e Il Giornale in particolare, cioè la Sicilia è fallita, hanno fatto infuriare letteralmente il presidente della regione Sicilia Raffaele Lombardo, che ha detto non c'è rischio default. Vedrò martedì Mario Monti. E però intanto ha anche incassato 400 milioni di euro, cari ascoltatori, 400 milioni di euro che il Premier si è affrettato a dire erano già previsti, sono stati solo sbloccati, erano già dovuti. Il dato di fatto è questa: una regione che, come spiega molto bene spulciando nei conti Giuseppe Oddo a pagina 11 del Sole 24 Ore, ha un indebitamento con un'esposizione di 5,3 miliardi di euro e nella quale poi bisogna capire se quei residui attivi da 15,7 miliardi che la Sicilia vanta e dice: vedete, abbiamo residui attivi da 15,7 miliardi, cioè sono crediti accertati ma non riscossi. Che non si capisce neanche perché non vengano riscossi. Lo stesso Giuseppe Oddo si chiede, la domanda che sorge spontanea è: come mai la regione siciliana, come molte amministrazioni pubbliche, come mai la regione siciliana non riscuota somme per un ammontare così ingente a fronte di una situazione di illiquidità e di oggettiva difficoltà finanziaria, come ha riconosciuto lo stesso Lombardo. Sta di fatto che, nonostante tutto questo, intanto sono arrivati 400 milioni freschi freschi nelle casse della regione Sicilia. Sappiatelo, cari italiani, e ne parleremo alle 8:30, anche perché un Lombardo è molto, molto arrabbiato. Sentite, per esempio, cosa ha detto a un certo punto. Si è riferito a un pseudo industriale, non lo ha nominato. Quando è sorta la polemica ha detto: non mi riferivo assolutamente a Ivan Lobello, che è il vicepresidente di Confindustria, che da giorni ha lanciato questo allarme proprio sul possibile crack della regione Sicilia. Ma sentite cosa ha detto Lombardo: c'è qualche pseudo industriale secondo cui io dovrei licenziare 50.000 persone, ma non lo farò mai. Piuttosto questo pseudo industriale vada a morire ammazzato. Testuale di Raffaele Lombardo. Se si riferiva a Ivan Lobello, più volte minacciato dalla mafia, è, come dire, quantomeno una battuta di cattivo gusto, mettiamola così. Io voglio lanciare un'altra idea. Si riferiva, non lo so, forse ad Andrea Vecchio, che è un suo assessore, peraltro. Quindi lo reputo, sarebbe incredibile, e che è un industriale e che ai nostri microfoni 2 giorni fa ha detto: la Sicilia è il crack, confermo, e non ci saranno presto forse i soldi per i dipendenti. Non lo so, non ha fatto il nome Raffaele Lombardo, e quindi quando si è parlato di Lobello lui ha detto: non mi riferivo a Lobello ma mi riferivo a uno pseudo industriale. Non lo so, io vediamo. Comunque vada a morire ammazzato, così Raffaele Lombardo, che ha anche detto: querelleremo Libero e Il Giornale. Oggi Maurizio Belpietro, che sarà nostro ospite alle 8:30, direttore di Libero, scrive: ci insulta ma ha perso, e il premier ora ha una sola scelta: il risanamento feroce. Anziché denunciarci, Lombardo si preoccupi dei contribuenti italiani. E poi sui giornali è un profluvio ancora, ci si esercita un po' in questa letteratura giornalistica degli sprechi della Sicilia. Per carità, su questo c'è da dire che c'è un po' di accanimento in questo caso, effettivamente non è che adesso la regione Sicilia è l'unica regione dove si sprechi, però in questo momento sotto gli occhi dei riflettori e sotto la luce dei riflettori ci sono gli sprechi della Sicilia. Allora, Gabriele Villa, pagina 4 del giornale: dai 30.000 forestali all'assegno per le orche, l'antologia dello spreco. Oppure Emanuele Lauria su Repubblica: escort, pentathlon e couscous, tutte le spese pazze coi fondi europei. A pagina 13 Emanuele Lauria scrive: l'ultimo sospetto, il più difficile solo da immaginare, che una quota dei finanziamenti europei dirottati in Sicilia sia stata destinata al pagamento di appartamenti ed escort. È uno degli scenari aperti dall'indagine su cui lavora la Procura di Palermo, che ha posato la lente su sovraffatturazioni e fondi neri creati da un project manager, Fausto Giacchetto, con lo scopo di garantire prestazioni particolari a favore di politici da compiacere per avere gli appalti sui grandi eventi siciliani finanziati dall'Unione Europea. Viene da dire: ci mancherebbe quella delle escort pagate con i fondi europei, che ora l'Europa richiede indietro, perché 600 milioni alla Sicilia, perché ci sono irregolarità nel loro utilizzo. E quindi si dice: manco i soldi che arrivano dall'Unione Europea si riescono a spendere. E in Sicilia c'è anche un'altra polemica tutta giudiziaria che riguarda Marcello Dell'Utri. Ieri si è aperto il nuovo processo di appello per il quale Dell'Utri, concorso esterno in un'associazione mafiosa, per il quale la Cassazione non aveva confermato la condanna in appello, ha detto anzi bisogna rifare il processo d'appello. Ieri si è aperto, ma proprio ieri è venuta fuori la notizia anche di una nuova accusa nei confronti del senatore Dell'Utri, vale a dire estorsione, indagato per estorsione nei confronti di Silvio Berlusconi. cioè la Procura di Palermo vuole capire perché negli ultimi anni 40 milioni di euro siano passati dalle tasche di Silvio Berlusconi a quelle del senatore Dell'Utri. Secondo l'accusa dei magistrati palermitani, è quella di avere, l'accusa è questa, soldi per comprare il silenzio di Marcello Dell'Utri sulla presunta trattativa Stato-mafia. È un'accusa molto pesante. Dell'Utri ieri ha reagito dicendo: che mi aspetto dal processo d'appello? Un cazzo, scrivetelo pure. Mentre per questa nuova accusa ormai mi manca l'accusa di pedofilia, e ce le ho tutte. C'è anche tutta la storia di una villa comprata da Berlusconi a Dell'Utri proprio alla vigilia di quella sentenza di Cassazione che poi ha rimandato tutto in appello, una villa comprata secondo i magistrati a un prezzo del valore di mercato ben superiore, e proprio poi alla vigilia di quel pronunciamento. E i magistrati vogliono sapere perché hanno convocato Marina Berlusconi, che andrà il 25 luglio, hanno convocato come teste a parlare, come parte lesa, sarebbe in questo caso Silvio Berlusconi, che ha detto andrò a parlare. Su questo è molto duro Giuliano Ferrara, fa un editoriale, Borsellino, la vergogna, perché parla anche della vicenda Borsellino. Ma su questa vicenda di Dell'Utri, Giuliano Ferrara in prima pagina del Foglio scrive: questa è la lettera che l'avvocato Ghedini dovrebbe consegnare alla Procura di Palermo. Signor procuratore, non ho alcuna intenzione di deporre nelle mani dei dottori Ingroia e Di Matteo. Hanno la forza legale di impormelo, ma non la legittimazione morale per esigerlo. Sono magistrati impegolati in una lubrica attività di sputtanamento della Repubblica. Hanno gestito un processo farsesco per l'assassino di Paolo Borsellino, un'inchiesta in cui un calunniatore pataccaro, detentore di arsenali dinamitardi, di un patrimonio illegale ben custodito, è stato spacciato per icona dell'antimafia e sciolto, come si fa con i cani, contro il generale dei carabinieri che arrestò Totò Riina. Sono diffamatori professionali di galantuomini, in avida e ansiosa attesa di politica partitante a mezzo di pronunciamenti ricattatori, comizi e interviste, non magistrati della Repubblica. Potrei andare a Palermo solo per interrogarli io e domandargli se siano consapevoli del degrado che infliggono all'idea di giustizia che sta a cuore a tutti gli italiani. Con ossequio, Silvio Berlusconi. Questo dovrebbe fare, secondo Giuliano Ferrara, l'ex presidente del Consiglio. Dell'Utri fa dichiarazioni, fa un'intervista a Repubblica che sembra più un collage delle dichiarazioni, e intanto però nel ventennale dell'uccisione di Paolo Borsellino c'è anche un giallo, perché è sparito il pentito Vincenzo Scarantino. Vi spiegheremo tra poco, dopo le informazioni sul traffico e la pubblicità, di chi si tratta, con lui anche l'intervista che Dell'Utri ha fatto al quotidiano Repubblica. Dell'Utri, come detto in questa intervista un po' più integrale, in realtà ieri ha fatto delle dichiarazioni fuori dal tribunale, la trovate su Repubblica: gli ho costruito io l'impero, Silvio forse mi deve altri soldi, non l'ho mai ricattato, a pagina 7 Alessandra Ziniti. Saranno pure fatti miei o no del perché mi ha dato così tanti soldi? Questo è l'esordio dell'intervista a Dell'Utri. È messo non concesso che sia vero a chi interessa. Questa è la solita morbosità e curiosità di quei PM malati, sempre voler sapere chi, come, quando, perché. Io non ho mai ricattato alcuno, meno che mai il mio amico Silvio, gli ho costruito un impero, forse di soldi me ne deve ancora. Qui sono pazzi, non capiscono un cazzo, la vendita della villa non c'entra nulla con la sentenza della Cassazione. Quella villa era in vendita da 2 anni, il suo valore di 30 milioni di euro, io gliel'ho data a 20 milioni di euro a Berlusconi, gli ho fatto un regalo. E poi mi manca l'accusa di pedofilia, e poi le ho tutte. I soldi, io ne ho bisogno di tanti, tanti soldi, ho un sacco di spese, debiti, mutui da pagare, ho i libri, la mia passione che costano un sacco di soldi, guardi. E poi ancora con un gergo triviale: non me ne frega proprio un cazzo, lo scriva, di questo processo. E ancora la domanda: senta, ma Mangano, i suoi rapporti, lo definirebbe ancora un eroe? Lo ridico fino alla morte, Mangano non è un eroe, è il mio eroe. Tutta questa polemica è inutile. Invece di definire eroe Borsellino, chiamo eroe Mangano. Mangano è il mio di eroe, ha pagato per non aver ceduto al ricatto di accusare me e Berlusconi. Mangano era l'ex stagliere che lavorò anche nella villa ad Arco di Berlusconi, che è stato poi anche condannato per mafia. E a proposito di 20 anni di Borsellino, ci sono tante notizie ovviamente, ma la notizia più inquietante, lo scoop sicuramente di Repubblica è questo: è sparito Vincenzo Scarantino. Vincenzo Scarantino chi è? Vincenzo Scarantino è l'uomo le cui parole furono ritenute attendibili all'indomani della strage di Via D'Amelio e costarono l'ergastolo a lui stesso e ad altri 7 mafiosi. Lui stesso si accusò della strage di Via D'Amelio. Poi dopo anni si è scoperto che in realtà Scarantino aveva raccontato, aveva mentito, perché il nuovo pentito Vincenzo Spatuzza, ritenuto invece più attendibile, ha ricostruito una nuova realtà, come dire: Scarantino non c'entra nulla, sono stato io, Spatuzza, con altri a uccidere Borsellino. E allora ci si è domandati per anni perché Scarantino avesse raccontato questa realtà, cioè si fosse accusato, autoaccusandosi obbligandosi a un ergastolo a lui e a altre persone. Perché l'ha fatto? In nome di che cosa? Beh, Scarantino da qualche tempo è libero, quando si è appurato appunto che lui aveva raccontato una verità non vera. A questo punto però è sparito, viveva sotto falso nome in una città del nord. Attilio Bolzoni e Francesco Viviano oggi su Repubblica: sparito l'uomo chiave di Via D'Amelio. È disperso, non si trova più. A 20 anni esatti dalla strage che ha falsamente confessato di aver fatto, Vincenzo Scarantino è scomparso. Da 15 giorni i suoi 2 telefoni cellulari squillano a vuoto. I PM che sono in contatto con lui dicono non risponde più al funzionario della DIA con il quale è rimasto in contatto per la sua sopravvivenza. Più volte lui aveva minacciato il suicidio, più volte è stato visto vivere chiedendo l'elemosina, è stato ripudiato infatti dalla sua famiglia. Non ci sono più tracce di lui da 2 settimane. Trovate questa storia, pagina 9 di Repubblica. A proposito di fondi, c'è da dire che il Fatto Quotidiano mette un'informativa dei della polizia giudiziaria segreta, tanto segreta non è, visto che finisce in prima pagina del Fatto. 9 milioni di euro sono i soldi di Daccò a Formigoni, quindi nuove accuse nei confronti del governatore lombardo: ville, ristoranti, soldi per Formigoni. Antonella Mascali a pagina 2. E poi anche a pagina 3 ci sono anche delle intercettazioni. Per gli investigatori sono 20 milioni di euro pagati da Daccò a Simone, ex assessore, la metà in contanti, e 9 milioni di questi sarebbero finiti per foraggiare anche le campagne elettorali di Roberto Formigoni. Beh, davvero accuse molto pesanti in questa informativa della polizia giudiziaria. Che c'è da dire ancora sulla politica? C'è un'interessante intervista a Bersani, Pierluigi Bersani del Partito Democratico, il segretario intervistato da Aldo Cazzullo a pagina 15 del Corriere. Nel 2013 un governo del tutto rinnovato, dice: ci vorrà una nuova generazione, non faccio nomi ma li ho tutti in testa. Bersani per ora se li tiene. Il primo provvedimento che farei se andiamo al governo riguarderà il diritto dei figli di immigrati nati qui e che studiano in Italia a chiamarsi finalmente italiani. Questo dice Bersani. E poi sulle primarie del Partito Democratico: io voglio le primarie, le voglio di coalizione, partiti, associazioni, benché sia il candidato statutario del PD non pretendo di essere il candidato esclusivo. La data non la decidiamo da soli. E manda anche un messaggio a Renzi. Matteo Renzi, il sindaco di Firenze, grande rivale, se volete, anche dialettico all'interno del PD: io gli voglio bene, dice Bersani, vorrei che pure lui volesse bene, non pretendo a me, ma al PD, e venisse a dire in casa le cose che invece dice fuori. Messaggio un pochino così. Che cosa dice fuori Renzi che poi non dice in casa? In questo minuto, credo, che mi rimane... approfondimenti molti sulla politica estera. Il terribile attentato in Bulgaria nei confronti di turisti israeliani, almeno 7 morti ma molti feriti. E attenzione, perché Gerusalemme dice c'è dietro l'Iran, e su questo Repubblica assicura, pagina 5, con Vanna Vannuccini, che segue molto quello che succede in Iran. Risponderemo colpo su colpo, l'attacco a Teheran è più vicino. Dunque torna a materializzarsi la minaccia di una possibile reazione dello Stato israeliano

di seguire con attenzione la vicenda di Palermo e di non girarsi dall'altra parte. Non si può caricare sui palermitani, meno che mai su una nuova amministrazione appena eletta, responsabilità di 10 anni di sprechi, di ruberie. Io credo che se il governo nazionale presta attenzione alla vicenda palermitana come a quella siciliana, emarginando e applicando tutte le sanzioni possibili nei confronti di chi ha sbagliato, ma non facendo pagare alla città e alla comunità i guasti di amministratori che per quanto riguarda Palermo sono andati via, sì. Per quanto riguarda la regione siciliana purtroppo sono ancora in carica con il colpevole sostegno del Partito Democratico. Ma lei lo commissarierebbe per esempio l'intera regione o la vedrebbe come un gesto esagerato? Per fortuna esiste la democrazia e io vorrei tanto che il Partito Democratico togliesse il sostegno a Lombardo. Dov'è Bersani? Dove è stato Bersani in questi anni quando il suo partito in Sicilia sosteneva Lombardo? Con questa domanda io la saluto, la ringrazio. Buona giornata. Grazie, al sindaco di Palermo Leo Luca Orlando per essere stato con noi. E noi rimaniamo sul tema Sicilia, perché sono arrivano 400 milioni da Roma alla Sicilia, fondi e soldi già destinati, già previsti, fa sapere il premier Monti. Un Raffaele Lombardo che ieri molto agguerrito ha reagito dicendo non è vero che siamo a rischio crack, querelerò anche i giornali che lo hanno scritto, tra questi anche Libero. Avremo il direttore di Libero tra poco, Maurizio Belpietro, con noi insieme al vicepresidente della regione siciliana Massimo Russo. Ieri il governatore della Sicilia Raffaele Lombardo ha fatto una conferenza stampa nella quale ha reagito molto duramente nei confronti di quei giornali che scrivono la Sicilia è al crack finanziario, la Sicilia rischia il collasso. Ha detto non è vero, c'è un problema di illiquidità. Intanto sono arrivati altri 400, o arriveranno a breve 400 milioni sbloccati dal governo centrale della Sicilia. Il premier Monti ha detto che sono soldi dovuti e già stanziati, già previsti e quindi verranno dati. C'è un problema di illiquidità, ma non c'è alcun rischio di crack finanziario. Anzi, ha detto Lombardo, querelerò i giornali che lo hanno scritto. Tra questi Libero, ne saluto il direttore Maurizio Belpietro. Buongiorno, direttore. Buongiorno. Oggi ancora aprite su questo tema, Monti sbarca in Sicilia, questo è il titolo di Libero. Voglio salutare con lei il vicepresidente della Regione Sicilia, Massimo Russo. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Insieme a lei c'è il direttore di Libero, Maurizio Belpietro. Senta, intanto Russo, chiedo anche a lei può confermare a dire la Sicilia non è al crack finanziario, non c'è il rischio per esempio di non pagare a breve gli stipendi ai dipendenti? Ma lo confermo e lo ribadisco e lo dico con forza, credo che le fonti governative di cui le agenzie hanno dato atto già ieri sera fanno cadere questa mistificazione grottesca che è stata montata per aggredire la Sicilia per finalità che sono tutte politiche. Ma montata da chi? La Sicilia ha avuto soltanto un problema di tensione finanziaria legata alla mancanza di qualche euro in cassa per crediti che vanta nei confronti dello Stato. Ieri sera è stato detto che saranno rimessi a breve 400 milioni di euro e altri arriveranno e si tratta di crediti che vanta la Sicilia, quindi non sono né concessioni né sforzi che fanno le altre persone. Però vicepresidente, prima di chiederle polemica montata da chi, vorrei capire, lei ha parlato di qualche euro, in realtà l'indebitamento credo anche da lei confermato è di un'esposizione totale al momento di 5,3 miliardi di euro, questo è il dato oggi ribadito anche dal Sole 24 Ore, sì, è così? Ma se lei ha uno stipendio di 27 mila euro e si indebita per 5.200 euro non è che i suoi debitori le pongono qualche questione, è un quinto delle sue entrate. I nostri numeri sono 86 miliardi di PIL, 5 miliardi e 2 di indebitamento, 27 miliardi di bilancio, numeri certamente diversi e migliori di quelli dello Stato. Questo sì, però voi che avete e dite vantiamo 15,7 miliardi di residui attivi, cioè crediti che dovete incassare, perché non li incassate? Noi abbiamo un creditore fondamentale e si chiama Stato e si chiama Unione Europea. Noi abbiamo 15.730.351 milioni di euro di residui attivi, cioè di crediti, di cui sostanzialmente 11 miliardi ascrivibili a somme non riscosse dallo Stato e dall'UE dall'Unione Europea per delle anticipazioni che ha fatto la Regione Siciliana. Ma dall'Unione Europea, mi scusi vicepresidente, dall'alto della mia competenza di assessore per la salute, sul fondo sanitario lo Stato fa le rimesse, trattiene un 3% legandolo alle verifiche di alcuni adempimenti e poi rimette questo 3%. Allo Stato ci devono dare circa 1 miliardo per fondi della sanità. Ieri ho parlato con l'ispettore Massicci, 100 milioni arriveranno a breve, altri 200 milioni a ottobre, più le somme che ci sbloccheranno dopo giorno 24, quando ci quindi, sarà la verifica del tavolo con Monti e Lombardo. Quindi insomma il creditore è lo Stato. Vabbè, poi sull'Unione Europea tra poco ci torneremo, anche perché abbiamo letto che invece l'Unione Europea chiede, credo, 600 milioni di euro indietro perché non li avete utilizzati o avete fatto delle irregolarità, per cui non sono stati incassati dalla Regione Sicilia. Ma tra un attimo ci torneremo. Non so se Maurizio Belpietro, direttore di Libero, la polemica montata, forse il governatore ce l'aveva sicuramente con voi anche, tra l'altro, visto che ha annunciato querela a Libero. Perché siamo stati i primi a sollevare il problema. Perché da giorni battete molto il tasto su questo tema della Sicilia? Ma perché è molto semplice: mentre agli italiani è richiesto di tirare la cinghia perché c'è la crisi, mentre tutti stanno facendo economia, mentre si impone la spending review, c'è una regione amministrata da Raffaele Lombardo che continua esattamente con gli stessi metodi di prima, cioè che continua a fare assunzioni, che continua a fare promozioni di dirigenti nonostante ne abbia 2000, ne nomina altre 100, come se nulla fosse accaduto. E qui siamo di fronte a una crisi economica e finanziaria globale che coinvolge in particolare l'Italia. Siamo nel mirino del Fondo Monetario, della UE, della BCE, e la Regione Sicilia sembra non accorgersi di tutto ciò, sembra continuare esattamente come ha fatto negli ultimi 60 anni. Secondo lei ci vorrebbe il commissariamento, che sarebbe una scelta anche costituzionalmente magari discutibile, però voi su Libero dite sì, ci vorrebbe un commissario. Perché? Ci vorrebbe un commissario, per la verità non siamo i soli a dirlo. Ma ci vorrebbe un commissario, perché vede, anche adesso si parla dei famosi 15,7 miliardi di crediti che la regione vanterebbe, ma sono crediti dubbi. Perché? Ma perché questi crediti vantati, molto spesso si tratta di crediti che vengono iscritti a bilancio, ma siccome sono stati spesi dei soldi utilizzando dei fondi che non potevano essere utilizzati per certe attività, è difficile che lo Stato riconosca quei soldi. Perché certi soldi vengono riconosciuti soltanto se sono fatti in investimenti e non utilizzati per la spesa corrente. Se questi soldi vengono utilizzati per pagare gli stipendi dei forestali, è evidente che lo Stato non li pagherà, perché 28.500 forestali, cioè operai forestali, sono assolutamente un numero spropositato, che non ha paragone in nessuna regione d'Italia. Cioè la regione Lombardia ne ha 600 ed ha un'estensione boschiva che è quasi tripla rispetto a quella della Sicilia. E su questo ce ne siamo occupati anche i giorni scorsi, vicepresidente Russo. Effettivamente l'idea è quella di un fondo senza fine che si continua ad alimentare, ma poi questi soldi dove vanno a finire? Poi è giusto alimentare un fondo di una regione che ha più di 20.000 dipendenti, che ha dei forestali con numeri che non sono assolutamente sostenibili rispetto al confronto delle altre regioni? Allora, io stamattina speravo che il direttore Belpietro avesse il buon gusto di chiedere scusa alla Sicilia, ai siciliani e agli italiani per le falsità che sono state scritte in questi giorni e che purtroppo ha ribadito. È evidente che c'è una precisa volontà di denigrare la Sicilia e il Mezzogiorno, e allora, siccome appartengo a una cultura che mi ha portato nella vita a confrontarmi con i fatti, cominciamo a parlare di fatti, e i fatti, pur dinanzi a opinioni più o meno rispettabili, però scusi, prima dei fatti, no, vicepresidente, allora, prima dei fatti, mi scusi, ma perché dovrebbe denigrare adesso poi le risponderà Belpietro, cioè perché avrebbe lo spirito di voler denigrare i siciliani? Di illustrare i dati per come risultano dai documenti ufficiali pubblicati anche nel rendiconto della Corte dei Conti, che, cominciamo da lì, ha detto che il bilancio della regione siciliana è regolare, evidenziando anche delle criticità. La Corte dei Conti. Vuol dire che la Sicilia non ha fatto nessuna assunzione. Questa tiritera, questa storiella delle assunzioni deve essere una volta e per tutte spazzate via. Mentre lo Stato interviene adesso con l'ultimo decreto a bloccare l'assunzione nella pubblica amministrazione, la Regione Siciliana ha assunto questo normativamente questo divieto, prima con una delibera di giunta e poi con la legge sì, questo è vero, però mi scusi, vicepresidente, oggi il Sole 24 Ore con Giuseppe Oddo dice chiaramente che la stessa Corte dei Conti che lei cita ha rimesso in rilievo delle pesanti criticità, invece è stata molto critica, e scrive Oddo: ha un bel dire lombardo a dire che la Regione non corre rischi di insolvenza. La Corte dei Conti invece molto direttamente esordisce criticando molto duramente il bilancio della Regione, quindi più che criticità, qualche criticità, sono molte pare le criticità secondo la Corte dei Conti siciliana. Da lontano il problema dei residui attivi riguarda tutte le regioni, riguarda lo Stato, riguarda i bilanci dei comuni, riguarda i bilanci delle province, riguarda in particolar modo il bilancio della regione Lazio, della regione Campania. Noi abbiamo, le ho detto, 15 milioni di residui attivi, di cui 11 milioni per lo Stato. Però mi sia consentito almeno di smentire con i dati le cose che Libero, Belpietro e altri giornali vanno dicendo. Allora lo faccia tra un attimo vicepresidente, devo dare le informazioni sul traffico altrimenti sforo. Riparto da qui anche a dire questa accusa che lei fa diretta, pesante, cioè Belpietro deve chiedere scusa perché quasi ha la volontà di denigrare i siciliani. Prima dei dati, Russo, mi faccia chiedere a Belpietro se ha intenzione di scusarsi, se è da una campagna denigratoria nei confronti della Sicilia, Libero. Premesso che non sono mosso da alcuna intenzione denigratoria, ma il dottor Russo, che è un ex magistrato, dovrebbe maneggiare con maggior perizia le parole prima di parlare di falsità, perché tutto quello che abbiamo scritto non solo è vero ed è certificato dalla Corte dei Conti, ma è anche la ragione per cui il governo è intervenuto. Ma poi, se volete, vi spiego nei dettagli. Russo, allora ci dica i dati, così discutiamo su questi. Allora, intanto, ieri qualcuno ha smentito da una postazione terza che ci sia un problema di crack o di default per la Sicilia. Sì, Monti questo. Quali sono i temi che vengono ribaditi a ogni piezo spinto per denigrare la Sicilia e i siciliani? E in fondo il Mezzogiorno, perché poi si coagulano queste spinte contro il Sud e il Meridione. Proprio perché sono un perito dei dati, mi permetto di offrirli all'opinione pubblica, personale. In Sicilia la motorizzazione civile, il genio civile, i centri per l'impiego, gli ispettorati del lavoro, gli uffici del lavoro, le sovrintendenze, i musei, i parchi archeologici, gli ispettorati dell'agricoltura, il corpo forestale, la polizia faunistica, i servizi del demanio marittimo appartengono alle funzioni della Sicilia. In Lombardia queste funzioni sono espletate dallo Stato. E forse perché c'è l'autonomia, forse. In Abruzzo, in Toscana, in tutte le regioni a statuto ordinario. Infatti togliamo l'autonomia, vicepresidente. In Sicilia abbiamo 17.000 addetti di ruolo, questi sono dati al 30 giugno del 2012. Per le funzioni proprie delle regioni, e quindi ci poniamo in una situazione omologa tra regione e regione, le funzioni che espletano i 3.500 della regione Lombardia in Sicilia sono espletate da 5.148. E mi scusi vicepresidente, però questi dati, ma perché c'è l'autonomia in Sicilia e quello è uno dei problemi per molti, andrebbe cancellato. Scusi, guardi che il regionale, qual è il problema? Due giorni fa l'avrà sentita anche lei l'assessore vecchio che è attualmente sua collega. È arrivato ora e si doveva dare anche una dimensione, ma l'assessore vecchio è assessore alle infrastrutture. La prego. Ha detto qui ai questi microfoni che l'autonomia la cancellerebbe subito, non ha più senso. È una posizione che guardi che molti italiani hanno. Lo chiedo anche al direttore Belpietro: in un momento in cui in Italia è partita l'organizzazione federale dello Stato, forse si sarebbe dovuto puntare sull'autonomia, e la Sicilia è antesignana, con una legge costituzionale il suo statuto è elevato a una fonte normativa primaria che garantisce alcuni valori. Noi crediamo profondamente nell'autonomia. Qualcuno vorrebbe far tornare la Sicilia ad un livello coloniale per far fare ciò che piace magari ai gruppi del nord. Mi faccia sentire Belpietro su questo, perché lei scusa. I cittadini hanno bisogno di dati e di capire. No, ma li ha dati alcuni, però mi faccia così, facciamo un dibattito. Facciamo un dibattito. Il siciliano che sta in Lombardia, sì, e rende anche virtuosa la Lombardia, non deve vergognarsi di... Ma nessuno si vergogna. Per bene, che guardano al bene comune e all'interesse generale. Allora, però, vicepresidente, queste informazioni quanto siano interessate. Si fermi un attimo, perché così Belpietro risponde anche sul tema dell'autonomia. Due giorni fa, a questi microfoni, in questo stesso spazio, l'assessore Vecchio ha detto l'autonomia andrebbe cancellata a nord, a sud, a Bolzano, in Sardegna, dove c'è l'autonomia, e anche in Sicilia. Belpietro, credo che la pensi così, visto che da giorni insistete su questo, però non so, il vicepresidente Russo punta molto sulla questione: ci volete portare a un livello coloniale, ci volete denigrare, si vuole denigrare il sud. Allora, premesso che in questi giorni noi stiamo dando voce ai siciliani, e quindi ci sono una serie di siciliani che scrivono su Libero e che dicono le stesse cose che dice Libero, compreso il fatto che va rivista l'autonomia. Se l'assessore ha pazienza di andarseli a leggere, forse troverà che evidentemente non c'è nessuna intenzione di criticare i siciliani, semmai di criticare la classe politica siciliana. Ma detto questo, devo dire che l'impudenza con cui vengono propalate alcune cifre è veramente scandalosa, perché si continua a dire che non sono state fatte assunzioni, ma lo dice la Corte dei Conti. C'erano 13.000 dipendenti fino all'altro ieri, cioè fino al 2010, sono diventati 17.000. Perché? Perché Lombardo ne ha stabilizzati 4.857 nel 2011 e avrebbe voluto stabilizzare altri 15.000, cioè avrebbe voluto trasformare i precari in dipendenti a tempo indeterminato. Che cosa significa? Significa che mentre attraverso tutta una serie di leggi che sono state fatte nel passato si sono creati una enormità di precari stimati in 100.000, perché sono infilati in tutti gli apparati dello Stato, Lombardo che cosa sta facendo? Sta facendo diventare tutta questa gente assunti a tempo indeterminato, cioè non più rimuovibili, sì, non più licenziabili. Per una questione politica, secondo lei, di consenso? Per una questione politica, per mantenere ovviamente, come si è sempre mantenuto in Sicilia. Ma tutto l'apparato in generale è permeato da questa politica. L'assessore dice bisogna l'autonomia, ma l'autonomia allora va benissimo, ma allora si rinuncia ai 15,7 miliardi di crediti. Se l'autonomia lo deve pagare lo Stato, allora è una bella autonomia, comoda autonomia. L'autonomia significa far da soli, e far da soli significa non ricorrere alle casse dello Stato, giusto? Anche sul fatto della dichiarazione di Monti di ieri, lei prima citava Oddo, che è ben informato. Oddo, sul Sole 24 Ore di oggi, spiega che Lombardo non dovrebbe cantare vittoria perché il governo ha assicurato l'immediato trasferimento dei 400 milioni, perché se lo Stato sgancia i soldi dopo il pandemonio che è scoppiato, questo non dimostra che l'allarme lanciato dai giornali è strumentale. In realtà è vero il contrario, scrive Oddo. La condizione di liquidità della regione siciliana può ripercuotersi negativamente sul mercato dei titoli del debito pubblico italiano, e per evitare spiacevoli conseguenze il governo accetta di farsi carico dell'emergenza versando il denaro necessario a garantire gli stipendi, pensioni e fornitori di Palazzo dei Normanni. Insomma, quasi una sorta di salvataggio. Quindi, no? In sostanza, lo Stato ha dato 400 milioni perché altrimenti non sarebbe stato possibile pagare gli stipendi. Quindi evidentemente la situazione era allarmante. Del resto, se non fosse stato così, Monti non avrebbe fatto quell'intervento, senza dubbio irrituale, e non sarebbe andato da Napolitano a parlare della situazione siciliana. Certo. Io, tra l'altro, la situazione è allarmante e si continua esattamente come prima. Quando mi si dice ma non è vero che, anche questa innanzitutto è un'argomentazione, già l'altro giorno ho risposto a Lombardo, perché ogni giorno cambiano i numeri questi signori. Un giorno dicono che i dipendenti della regione che svolgono servizi cosiddetti nazionali sono un terzo, un altro giorno le cifre ogni giorno mutano. La realtà è che la Corte dei Conti scrive quello che scrive e dice sono stati aumentati i dipendenti pubblici, la situazione è allarmante, sì, dice che la situazione è preoccupante deterioramento, il debito è in continua crescita. No, ma poi che questi 15,7 miliardi di crediti sono dubbi. Siciliani, sono magistrati contabili siciliani, quindi non c'è nessuna denigrazione fatta da un giornale, ci sono i conti, e i conti purtroppo non sono opinabili, sono conti. Io su questo mi devo fermare, perché altrimenti se faccio un'altra domanda poi devo sfumare che sono cose antipatiche, dopo mi accusano di togliere la parola, ma non è così. Premesso che torneremo su questo tema, voi siete già reinvitati, vediamo come va la situazione settimana prossima. Io devo dire, ieri tra l'altro il governatore Lombardo ha detto una frase davvero infelice, questo è almeno da tutti condiviso, ha parlato di uno pseudo industriale, non si capisce poi a chi si riferisse. Qualcuno ha detto si riferiva al vicepresidente di Confindustria Lobello, che ha criticato molto, ha detto siamo al crack, lui ha detto no, non mi riferivo a lui, ma ha detto questo pseudo industriale che vorrebbe che io licenziassi 50.000 persone, dovrebbe a questo pseudo industriale se ne vada a morire ammazzato. Così, testuale. Lombardo fa anche queste dichiarazioni ogni tanto. Questo è sbagliato. Comunque ringrazio il vicepresidente della Regione Sicilia, Massimo Russo, e il direttore di Libero, Maurizio Belpietro, per essere stati con noi. @AlinoMilan è l'account su Twitter, @24Mattino è sempre l'account su Twitter. Ringrazio Elisabetta Fusconi in redazione e Filippo Aureggi in regia. A domani alle 7:20.